and your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelt. Le 21.08 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. E anche per oggi, mercoledì 4 ottobre del 2017, ennesimo appuntamento con prove tecniche di trasmissione da adesso sino alle 22.30 circa. Credo che anche per questa sera a 25 o'clock non andrà in onda, ma comunque sarò ben lieto poi di eventualmente registrare un cambiamento di palinsesto. Il contatto telefonico è 06 49 1750. Il sito internet è www.ondarossa.info anche per usufruire del nostro streaming. E salutiamo il buon Giovanni da Bari che già lo sta usando. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, e questa trasmissione, questo spazio ha una pagina Facebook che è prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani uscirà playlist e podcast, cosa che accadrà anche nel sito della radio stessa. E si può seguire anche questo programma nella bacheca in questo momento alla voce Giacomo Elettrodo. Cominciamo con questo magnifico strumento che è la fisarmonica, suonato stupendamente dal maestro Sisto Palombella, ormai vecchia conoscenza di questi spazi di prove tecniche. Ci ha fornito di svariate tracce mentre stiamo aspettando proprio un album ufficiale che uscirà attraverso la Next Play Sounds del buon Raffaele Pezzella, e intanto ci gustiamo queste tracce, diciamo accumulate proprio per prove tecniche di trasmissione. Salutiamo Sisto Palombella in questo momento all'ascolto e ce lo andiamo proprio ad ascoltare con Cervo Zoppo e Pensioni 75. Thank you. Eccellente questi fraseggi composti, ideati, suonati da Sisto Palombella e la sua fisarmonica in questi due episodi dal nome Cervo Zoppo, dove forse c'era anche una tastiera. Il buon Sisto Palombella ce la può confermare se era una tastiera oppure anche lì un effetto della sua splendida fisarmonica. E poi ci siamo ascoltati Pensioni 75, due tracce estratte da questa compilation, diciamo, autocostruita, che va a fare da prodromo a una compilation ufficiale che uscirà attraverso la Nesplay Sounds. Syncordion, questa è la risposta. Ringraziamo Sisto. Artista che ascolteremo anche nelle prossime settimane. Artista di origine meridionale, ma residente nella provincia di Mantova. E scendiamo proprio al sud, lo facciamo attraverso Mario Cardinale, che produce attraverso l'Industrial Holocaust Recordings questo progetto dal nome Empty Chalice. Album dall'andamento ritualistico sacrale, molto plumbeo nel suo svolgersi. Un album che si chiama Merging Kiss, Submerging the Evil. E ci ascoltiamo questa glaciale, non a caso, Sidereal è il nome di questo pezzo glacialissimo per Empty Chalice. profuma questo Empty Chalice? Empty Chalice dunque, con questo nuovo lavoro Emerging is Submerging the Evil. Tappeti sonori molto oscuri e dilatati, che può ricordare in parte anche Rise on Death, tanto per citare un nome magari più noto. Progetto comunque italiano, dietro il quale si cela Antonio Eroldi, che salutiamo. Un'operazione condotta da Mario Cardinale e la sua Industrial Holocaust Recordings. Intanto una bella foto della strumentazione di Sisto Palombella, assai affascinante al vedersi e naturalmente anche al sentirsi. Spesso accade che abbiamo molte produzioni italiane qui a Prove Tecniche di trasmissione, e quindi noi si va avanti con un'altra uscita nuova, Red Room, che vede l'unione di intenti di due personaggi famosi della scena italiana sperimentale: Gianluca Becuzzi, che non ha bisogno di presentazioni, le sue frequentazioni con, anche con i Pankow, con i Limbo, Noise Trek Company, eccetera eccetera, e Massimo Olla come Noise Delic. Insieme fanno questo Red Room, sorta di rivisitazione di ballate maledette del passato, in chiave diciamo particolarissima, quasi anch'essa ritualistica. E da questo album ci ascoltiamo I Hang My Head e Pretty Polly. Intanto un saluto anche a Leonora, che io sapevo in Irlanda ma evidentemente qui in Italia in questo momento, e Alexia, sempre all'ascolto di Radio Onde Rosse, di Prove Tecniche di trasmissione. Ce lo gustiamo questo Red Room. Thank you. to fetch me to see what they done, and we drive together till kingdom come. I prayed for Satan, for soon I'd be dead. I hung my head. Il Red Room sempre di Gianluca Becuzzi e Massimo Olla, sul quale si va a salutare Antonella dalla Sicilia e all'estremo opposto quasi Giovanni da Copenaghen. Eccolo qua dunque, Red Room per Gianluca Becuzzi e Massimo Olla. day for killing pretty Polly and running away. Eccellente questo Red Room di Gianluca Becuzzi e Massimo Olla, queste canzoni maledette rivedute e corrette in chiave quasi ritualistica e avant folk dai due artisti. La ottima voce di Gianluca Becuzzi, l'uso delle macchine e anche la chitarra di Massimo Olla con varie diavolerie autocostruite da parte di Massimo. Un saluto di nuovo a Giovanni Campagna, Sound Dog 65, che prima o poi risentiremo qui in questo spazio prove tecniche di trasmissione, uno spazio giunto ormai alle 21.41 e alle 21.41 entra anche il buon Ramingo, lo salutiamo. Anche questa sera un viaggio nell'Iran più sperimentale e sotterraneo grazie a Raffaele Pezzella e la sua interessantissima compilation di vari artisti provenienti da quelle parti. Un album che si chiama Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music, un vero e proprio manifesto di intenti, una mole impressionante di artisti, e il fatto che provengano dall'Iran mi fa particolarmente impazzire di gioia, per cui questa sera ci ascoltiamo Narcissa Kashrai con Articulation e poi Roncus con un brano dal nome Graph. Siamo riusciti a farlo partire, un problemino con il lettore, eccolo qua. Comunque Narcissa Kashrai. Era dunque Narcissa Kashrai, interessantissima e parcellizzata traccia dal nome Articulation, spezzatina, spezzatissima. Articulation. Ecco il successivo artista, questo Roncus, da questa traccia, da questa, con questa traccia del nome Graph. Thank you. comunque buone nuove ancora una volta dall'Iran. In questo caso è Rongus, mentre sembra che lo streaming vada bene, tranne che per Antonella, quindi forse è un problema suo. Sisto ci sta ascoltando dall'Iran e dice che si sente bene anche lì, quindi speriamo che per Antonella che ritorni il tutto. Un caso di come la musica effettivamente sia un linguaggio universale. Poi garantisco che in alcuni frangenti dell'album ci sono anche degli agganci etnici proprio che possono far pensare che questo disco possa venire da una terra lontana, proprio dall'Oriente. Sono le 21:55, andiamo avanti e cambiamo radicalmente suono. E ci accostiamo a un progetto dal nome Iron, una sorta di acronimo che non è nient'altro che il progetto B di Legionari, che lì si esprime in una dimensione decisamente prettamente martial, mentre qui il tutto è mutuato attraverso le elettroniche. Questo è il secondo album di Iron, uscito nel 2013, uscito per la polacca Rage in Eden, e si chiama Reforge, Metallize It, Mechanize It, Upgrade. Ci ascoltiamo The Industrial Man e Titanium Sun, salutiamo anche Alessandra.